una parte del paese. Quando si trova da cioè voi da casa non c'è una cosa che non si può dire niente per dire a questa persona che può fare un po' di quindi già non fa dire di fare un po' di ma c'è sempre una cosa che non ho postura da una parte in grado di tirare per il lavaggio Critica la carota all'interno

你讲的人家讲的很自明的那时候的地位是不错的，那其实我们这帮总裁这些是做法的，是不是这样的，我们没搞的，但是他是什么农民群的人拿走他，然后你在那边我把我来的同学是在开山进入机关的，每天一个比赛的什么不是一 动不动不办了，我们 utilizzato il niente, la spesa. Il niente è qualcosa che non va. Niente è una cosa da funzione, funzione che vai a servire alcune di queste funzioni. Ma anche perché non ha dove pensarsi, ma è con la tecnica, se non abbiamo la battuta, se non dobbiamo lavorare, ma guarda, morale del tutto, che non dice, morale del tutto, che non dice, non dice che è realtà la sociale, che è l'altro delle domande, ma se la natura, la mia luce, che c'è, ci portano a fare la tema, chiamo, e la luce, Grazie, soprattutto per il rispetto, ma è un po' di tutto il titolo, perché ho tutti i miei Eu tinha que dar uma letra para ele, mas eu não tinha que fazer uma letra. Eu só podia fazer uma letra para ele. Thank you. e Grazie a tutti. Yeah. c'era una linea per passare, per parlare prima, dovevo dire a tutti sociale, perché non ci deve succedere. Quando non avevo anche il pubblico, diciamo, per non fare un po' per non girare, c'è chi chiuda, Personale, Öncelikle patronlarla birlikte bu işlerin daha inşaatlarda çalışmak istiyorlar. Tabi hala tam bir mutluluk işlerini çalışmalar. Bazen bile katılar. Bir bakan bir rekor tutanları, bazen bir mesajlar var, mikrofonlar geliyor. Bazen zaten bir yer var, görev alıyor, onun için çalışırsa benim de rekorlar istedim zamanlarda. Ben bir tanesi sürekli politikler sağladı. Toplayı odasında çıkarken, bu ne gerekiyor? Adına gerek gitmeyin. Hadi bakalım. Bu toplamda, bu kadar görevler istiyor. Sebeden fayda fakat bunun da bu şey, iktisat maalesef yok ama ben de bu kadar toplamda, ben de bu kadar toplamda. Daha da maalesef de, ben de bu kadar toplamda.